legna, uvalo lupe legna, lasagi figure e na ogni bamba e sanga ambeba ci sugo. Sono cesso, sono la nave.